Capitolo 11. Pur con tutte le sue pecche, la giornata trascorsa a Sotherton lasciò nelle signorine Bertram un piacevole ricordo. Certo, più piacevole dei sentimenti suscitati in loro dalle notizie che alcuni giorni più tardi giunsero da Antigua. Era senz'altro più appagante pensare a Henry Crawford che al ritorno del padre, e pensare a quel padre nuovamente presente in Inghilterra da lì a non molto tempo, come le lettere teste giunte le costringevano a fare, era un esercizio tutt'altro che piacevole. Novembre era lo squallido mese previsto per quel ritorno. Sir Thomas ne fissava la data con tanta certezza quanta gliene consentiva la passata esperienza e l'ansia di essere di nuovo a casa. I suoi affari, ormai prossimi alla conclusione, gli permettevano di annunciare con quasi assoluta certezza la data della partenza. Si sarebbe imbarcato sul postale del prossimo settembre, per cui sperava di essere nuovamente in famiglia ai primi di novembre. Maria era senz'altro da compiangere più di Giulia, perché per lei l'arrivo del padre significava la conclusione del matrimonio e proprio il ritorno di quello che tra i familiari era più sollecito della sua felicità. L'avrebbe unita al fidanzato non amato dal quale, e lo aveva voluto lei, quella sua felicità sarebbe dipesa. La prospettiva era desolante e tutto quanto la giovane poteva fare era nasconderla a se stessa dietro una cortina fumogena, sperando che al suo dissolversi le si aprisse una qualche via di uscita. E poi il padre non sarebbe arrivato proprio ai primi di novembre. In genere si verificavano ritardi e la traversata era cattiva o succedeva qualcos'altro, quel qualcos'altro in cui trovano conforto tutti quelli che chiudono gli occhi per non vedere la realtà o la mente per non capirla. Probabilmente sarebbe arrivato come minimo alla metà di novembre, e alla metà di novembre mancavano 3 mesi. 3 mesi fanno 13 settimane. In 13 settimane potevano accadere molte cose. Sir Thomas si sarebbe sentito profondamente mortificato se avesse potuto sospettare anche solo la metà di quanto le sue figlie provavano al pensiero del suo ritorno. E avrebbe trovato scarsa consolazione nel conoscere l'interesse che quel suo ritorno suscitava nel cuore di un'altra giovane signora. Miss Crawford, che in compagnia del fratello era venuta a Mansfield Park per trascorrervi la serata, apprese la buona notizia e, benché apparentemente la cosa non la dovesse interessare più di quanto richiedeva la cortesia, e il commento se ne dovesse esaurire in qualche parola di congratulazione, ascoltò tutti i particolari con l'attenzione di chi non si accontenta di una sommaria informazione. Mrs. Norris fu pronta a dare una relazione dettagliata del contenuto delle lettere. Dopodiché l'argomento venne lasciato cadere, ma dopo il tè, standosene nel vano di una finestra con Edmund e Fanny, mentre le signorine Bertram, Mr. Rushworth e Henry Crawford si affaccendavano intorno al pianoforte per disporvi le candele, Miss Crawford all'improvviso lo ravvivò dicendo: «Come sembra felice, Mr. Rushworth, sta pensando a novembre!» Edmund guardò anche lui Mr. Rushworth, ma non trovò nulla da aggiungere. «Il ritorno di suo padre sarà un interessantissimo avvenimento!» «Oh, lo sarà certamente dopo questa sua assenza, un'assenza che non solo è stata lunga, ma anche lo ha esposto a tanti pericoli!» «E poi precederà altri interessanti avvenimenti!» Il matrimonio di sua sorella e per lei l'ordinazione ecclesiastica. Infatti, oh, non si offenda, disse lei ridendo, ma la cosa mi fa venire in mente certi eroi mitici che, dopo aver compiuto grandi imprese in terre straniere, tornando sani e salvi in patria, offrivano sacrifici agli dèi. In questo caso non ci sono sacrifici, replicò Edmund, sorridendo ma con tono serio, e guardando nuovamente in direzione del pianoforte, aggiunse: «Il fidanzamento è interamente opera di mia sorella.» «Oh, sì, so che lo è. Stavo solo scherzando. Sua sorella non ha fatto nulla di più di quello che avrebbe fatto al suo posto qualsiasi altra ragazza e non dubito che sarà molto, molto felice. Evidentemente lei non vuol capire a quale altro sacrificio alludo.» «La scelta dell'ordinazione da parte mia è, l'assicuro, tanto libera quanto è libero il progetto di matrimonio di Maria.» «Oh, è una vera fortuna che le vostre inclinazioni e le preferenze di vostro padre coincidano in modo così perfetto. A quanto mi si dice, vi è, qui nei paraggi, un'ottima parrocchia tenuta in serbo per lei. Il che, lei crede, ha influenzato la mia decisione.» «Ma io sono sicura che non è così», esclamò Fanny di slancio. Grazie per le tue buone parole, Fanny, ma nella tua affermazione vi è più di quanto oserei dichiarare io stesso. Anzi, il sapere che vi era per me quella prospettiva probabilmente sì, mi ha influenzato. Non ne ci trovo nulla di male. Non ho avuto nessuna ripugnanza e non vedo proprio come uno debba essere un cattivo sacerdote per il solo fatto di sapere in precedenza che godrà di una certa sicurezza economica. Ero in mani sicure. Personalmente spero che non mi sarei lasciato influenzare da bassi motivi e mio padre, coscienzioso com'è, non me lo avrebbe certo permesso. Sono stato influenzato, su questo non c'è dubbio, ma penso che in ciò non vi sia stato nulla di riprovevole. È lo stesso caso, disse Fanny dopo una breve pausa, del figlio di un ammiraglio che entra in marina o del figlio di un generale che sceglie l'esercito. Nessuno ci vede nulla di male. Nessuno si meraviglia che optino per una carriera in cui i loro padri li possono meglio aiutare o pensano per questo che non vi si sentiranno portati. No, mia cara Miss Price, è per una buona ragione. La scelta della carriera, sia in marina che nell'esercito, trova la propria giustificazione in se stessa. Tutto è in suo favore: eroismo, pericolo, azione, eleganza. I soldati e i marinai sono sempre bene accetti in società. Nessuno può stupirsi che un giovane diventi marinaio o soldato. Mentre invece i motivi di un giovane che riceve l'ordinazione ecclesiastica, disse Edmund, con la certezza di un beneficio, possono essere a buon diritto sospettati, lei pensa? Per essere giustificato ai suoi occhi, il giovane in questione dovrebbe fare la sua scelta nella più completa incertezza di una sistemazione? Ma no, scegliere la carriera ecclesiastica senza la garanzia di una parrocchia? No, questa sarebbe pazzia, semplice e assoluta pazzia. E posso chiederle dunque come la Chiesa dovrebbe reclutare i suoi ministri se un giovane non deve ricevere gli ordini né con la garanzia di una parrocchia né senza? No, non glielo chiedo perché certamente non saprebbe cosa rispondermi, ma in base ai suoi stessi argomenti devo segnalarle ciò che parla in favore dell'ecclesiastico, siccome non può essere influenzato dalle lusinghe altamente tentatrici e pragmatiche dell'eroismo, dell'azione, dell'eleganza, che secondo lei inducono il marinaio e il soldato alla loro scelta, siccome tutto ciò va contro la scelta dell'ecclesiastico, questi dovrebbe essere meno passibile del sospetto di scarsa sincerità o dell'assenza di buone intenzioni nei suoi proponimenti. Oh, senza dubbio, è molto sincero nel preferire una rendita bella e pronta alla fatica di lavorare per meritarsela e alle migliori intenzioni di non fare altro per il resto della vita se non mangiare, bere e ingrassare. Questa è indolenza bella e buona, Mr. Bertram. Indolenza e amore del quieto vivere. Mancanza di ogni lodevole ambizione di gusto per le piacevoli compagnie e assenza di disponibilità a darsi da fare per rendersi piacevole. Ecco le note caratteristiche dell'ecclesiastico. Un ecclesiastico non ha nulla da fare se non essere infingardo, abbandonarsi all'egoismo e poi leggere il giornale, osservare che tempo fa e bisticciare con la moglie. Il curato che dipende da lui fa tutto il lavoro. Il suo maggiore interesse è pranzare bene. Beh, senza dubbio si incontrano simili ecclesiastici, ma non credo siano tanto numerosi da giustificarla, Miss Crawford, quando li assume a paradigma. Sospetto che in questa totale, e posso dirlo, banale censura, lei non parli in base a esperienza diretta, ma secondo le opinioni preconcette di persone alle cui parole è stata solita porgere orecchio. È impossibile che le sue osservazioni personali le abbiano permesso una vasta conoscenza del clero. Lei può aver conosciuto solo pochissimi individui appartenenti alla categoria che condanna così recisamente, ripete quello che ha udito dire alla tavola di suo zio. Ripeto quella che a mio giudizio è l'opinione generale, e quando una opinione è generale, generalmente è corretta. Benché io non abbia visto granché della vita domestica degli ecclesiastici, è stata osservata direttamente da troppe persone perché le informazioni in proposito siano manchevoli. Ah, là dove una qualsiasi categoria di persone colte a qualsiasi ramo appartengano viene condannata indiscriminatamente, l'informazione deve essere deficiente o qualcosa di peggio. Suo zio e gli ammiragli, i suoi colleghi, forse conoscevano pochi ecclesiastici all'infuori dei loro cappellani che, buoni o cattivi che fossero, desideravano tenersi fuori dai piedi. Povero William, ha trovato grande bontà e gentilezza nel cappellano dell'Antwerp. Fu il tenero contributo di Fanny alla logica degli affetti più che a quella degli argomenti dibattuti. Sono sempre stata così poco propensa a formare le mie opinioni su quelle dello zio, disse Miss Crawford, che non posso supporre. E visto che lei mi stringe così da vicino, devo farle notare che non sono così priva di occasioni per osservare, per vedere con i miei occhi come siano gli ecclesiastici, dato che per il momento sono ospite di mio cognato, il dottor Grant, e benché il dottor Grant sia estremamente gentile e compiacente con me, e benché egli sia un perfetto gentiluomo, e oso dirlo, un degno e intelligente studioso, e spesso faccia ottimi sermoni, e sia molto rispettabile, vedo che è un edonista indolente, un egoista, il quale esige prima di ogni altra cosa che venga gratificato il suo palato. E non muoverebbe un dito per andare incontro a qualcuno, e che, per di più, se la cuoca sbaglia, si irrita con la sua ottima moglie. Se devo confessare la verità, stasera Harry e io siamo stati in parte indotti a uscire di casa dalla delusione cagionatagli da un'oca malfrollata, delusione che non è riuscita a superare. La mia povera sorella è stata costretta a rimanere a casa a sopportarne il malumore. Le assicuro che non mi meraviglio della sua disapprovazione. Cose come queste sono indice di un grave difetto di carattere, peggiorato da una colpevole autoindulgenza. E il vedere sua sorella che ne patisce le conseguenze deve essere assai penoso per lei. Fanny, questo esempio infirma la nostra tesi. Non possiamo prendere le difese del dottor Grant. No, certo, disse Fanny, ma non per questo dobbiamo condannare la sua professione, perché qualsiasi professione il dottor Grant avesse scelta vi avrebbe portato un carattere non troppo facile, e siccome sia in marina che nell'esercito avrebbe avuto alle sue dipendenze assai più persone di quante ne abbia nella sua attuale posizione, penso che come marinaio o come soldato ne avrebbe tormentate molte di più di quante ne tormenta in quanto pastore. Inoltre non posso fare a meno di credere che i difetti del dottor Grant avrebbero corso il pericolo di peggiorare in una professione più attiva e mondana, dove avrebbe avuto meno tempo per riflettere e minori obblighi morali, dove avrebbe anche potuto sottrarsi a quella conoscenza di sé, o perlomeno a un insistente richiamo in questo senso, al quale non è possibile che gli sfugga nella sua attuale posizione. Un uomo sensato, qual è il dottor Grant, non può insegnare ripetutamente agli altri. Una settimana dopo l'altra, che cosa è il dovere? Non può presentarsi alla sua congregazione 2 volte ogni domenica e pronunciare, come solito, sermoni così belli senza esserne migliorato egli stesso. Tutto questo lo costringe inevitabilmente a pensare, e sono certa che si sforza di vincersi più spesso di quanto farebbe se non fosse un ecclesiastico. Naturalmente non è possibile dimostrare il contrario. Ma le auguro una sorte migliore, Miss Price, di quella che aspetta la moglie di un uomo la cui amabilità dipende dai propri sermoni, poiché anche se la domenica potrà indursi a modi più piacevoli, grazie al suo sermone, sarà più che sufficiente sentirlo brontolare da lunedì mattina fino a sabato sera per via di un'oca malfrollata. Penso che l'uomo capace di irritarsi frequentemente con Fanny, disse Edmund affettuosamente, sia tetragono all'influenza di qualsiasi sermone. Fanny si ritrasse nel vano della finestra e Miss Crawford non ebbe che il tempo di dire con fare scherzoso: «Penso che Miss Price abbia meritato lodi più spesso di quanto ne abbia ricevute». Poi, sollecitata con insistenza dalle signorine Bertram a unirsi a loro per far la sua parte in una cantata a voci alterne, si diresse verso il pianoforte, lasciando Edmund a seguirla con lo sguardo estatico, pieno di ammirazione per i suoi innumerevoli pregi, dai suoi modi attraenti fino al suo incedere leggero e grazioso. Ecco senza dubbio una vera prova del suo carattere gaio e aperto, commentò finalmente. Ha una così buona indole che non vorrebbe mai cagionar pena ad alcuno. E come cammina, e come è pronta ad assecondare i desideri altrui, partecipando alle loro attività appena ne viene richiesta. Che peccato, aggiunse dopo un attimo di riflessione Edmund, che sia cresciuta in quell'ambiente. Fanny assentì, e vide con piacere che Edmund rimaneva con lei nel vano della finestra, benché la cantata stesse per iniziare, e fu lieta che gli occhi di lui, da lì a poco, si fissassero, come facevano i suoi, sullo scenario esterno, dove, in contrasto con l'ombra profonda dei boschi circostanti, si offriva allo sguardo un paesaggio solenne, bello, rasserenante, immerso nella luminosità diffusa da un limpido cielo notturno. Fanny espresse le sue sensazioni a parole. «Ecco la quiete», disse. «Ecco l'armonia, ecco qualcosa che vince qualsiasi dipinto, qualsiasi musica, e che la sola poesia può tentare di descrivere. Qualcosa che potrebbe calmare qualsiasi angoscia, elevare il cuore fino al rapimento. Quando contemplo lo spettacolo di una notte come questa, mi sembra che non possano esserci né dolore né malvagità sulla terra». E certamente ve ne sarebbe molto meno se si prestasse maggiore attenzione alla sublimità della natura e se l'uomo, contemplando una scena tale, fosse indotto più spesso ad uscire da se stesso. Mi piace ascoltare le tue entusiastiche espansioni, Fanny. È una bellissima notte e sono assai da compiangere quelli che non hanno imparato a sentire come fai tu, che non hanno appreso fin dalla fanciullezza a gustare le gioie che ci vengono dagli spettacoli naturali. Perdono molto, moltissimo. Sei tu che mi hai insegnato a pensare e a sentire tutto questo, cugino? Ho avuto una discepola molto ricettiva. Ecco, guarda lassù il risplendente Arturo. Sì, è l'orsa, mi piacerebbe vedere Cassiopea. Per poterlo fare dovremmo uscire sul prato. Avrai paura? Certo che no, è da molto tempo che non osserviamo le stelle. È vero, non so capire come mai. In quella si fecero udire le voci alterne del canto. Si fecero udire. Rimarremmo qui finché è finito, Fanny, disse Edmund voltando le spalle alla finestra. E mentre l'armonia si spiegava, essa ebbe la mortificazione di vederlo che si spostava a poco verso il pianoforte, cosicché quando le voci tacquero, egli si trovò vicino alle cantatrici, non solo, ma fu quello che più insistette nel chiedere loro di ripetere la canzone. Fanny, sospirando, rimase sola alla finestra finché le rimostranze di Mrs. Norris, che minacciosamente le ricordava il pericolo di prendersi un raffreddore, la richiamarono verso il centro del salotto.